Dopo 2 anni dalla chiusura ritorna il binario 69 in via dei Carracci. Per parlare di questa riapertura siamo in collegamento con Angelo Cagnazzi. Ciao Angelo, benvenuto a Radio Città Fujiko. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Forse è una sorpresa tanto attesa quanto inaspettata quella della riapertura del binario. Ora dopo 2 anni ci prepariamo per il grande ritorno. Angelo, vorrei iniziare chiedendoti di raccontarci un po' questi 2 anni, di cosa è successo e soprattutto che cosa succederà ora al binario 69. Guarda, allora, cosa è successo? È successo quello che tutti sappiamo, le limitazioni, e la nostra decisione è stata quella di non riaprire a capienze limitate, con appunto ragionamenti anche di economici e via dicendo. Si è preferito tenere un po' in stand-by lo spazio, anche perché la nostra missione, insomma, è quella di usare gli eventi e la musica come pretesto di socialità, e quindi ritrovarci in quella situazione un po' aliena, quali sono stati gli ultimi anni, non ci piaceva, non lo sentivamo molto nostro. E di lì in poi sono partiti, oltre che i ragionamenti, anche poi un po' di scoraggiamento, fino a quando, insomma, stavamo quasi per mollare. Ecco, stava per diventare una sala scommesse il binario, detta come va detta. Di lì in poi c'è stato però un gesto molto bello del nostro padrone di casa, Riccardo, che salutiamo, abbracciamo, baciamo immensamente, che ci è venuto incontro. Insomma, è stato una di quelle persone che ha riconosciuto il valore del progetto e ci è venuto molto incontro per l'affitto e per tutto il resto. E di lì in poi, insomma, abbiamo preso un po' più di coraggio e abbiamo deciso di tenere duro. Ci siamo buttati su altri progetti. Insomma, adesso ti parlo dall'Appennino, dove abbiamo aperto il Poggiolo Rifugio Resistente, e a Montesole. E quindi dai, in contemporanea ci siamo tenuti allenati, creando anche nuovi festival, facendo sempre un po' di musica sporadicamente. E ora niente, adesso è arrivato il momento di ripartire da dove si era lasciata questa avventura in via Carracci, insomma. Un'avventura che ripartirà con una festa, diciamo un weekend all'insegna della musica in stile binario. Di che cosa si trattano queste giornate? Guarda, sono 3 giorni di musica live e di musica, mi viene da dire, anche inedita, nel senso che sono progetti, come sempre, curiosi, per curiosi e molto variegati. Quindi passiamo dalla ricerca di musica gitana degli Zambramora di Modena a un DJ set che speriamo di portare a casa, di Tamada, un producer di Tbilisi, e che adesso speriamo, anche con le brutte notizie del fronte armeno, di riuscire comunque a riportare in Italia. E poi si continua sia il venerdì che il sabato con diversi progetti, sia live come I Sordi, che è un duo di polistrumentisti giovanissimi vicentini, e Tonino 3000, che invece è un po' uno sciamano della presa bene, e fa un progetto invece più ballerino, più con sonorità sudamericane, e poi sempre DJ set. Sono 3 giorni per riprendere proprio, come si può dire, i movimenti base dello stare assieme, del muoversi, del ballare, del ritrovarsi. Sotto quell'aspetto ci mancava tanto e non vediamo l'ora. Angelo, ti faccio un po' l'ultima domanda, anche un po' inerente allo spazio, perché 2 anni sono tanti. Per chi non entra nel binario da 2 anni, forse sarà un po' una grande emozione poter riattraversare quello spazio. Entreremo in un nuovo binario 69, ci saranno altre sorprese? Beh, guarda, in realtà il binario è sempre stato abbastanza oscuro, non si è mai fatto vedere molto in termini proprio di spazio e tinte sui social. Sicuramente lo stiamo un po' ridisegnando su alcuni movimenti interni. Ci sarà soprattutto un po' di stuzzicheria, quindi per mangiare, per partire anche un po' prima con i live. Partiremo tassativamente alle 9:30, e quindi sarà uno spazio, diciamo, che dove una casa dove arrivi e puoi sì chiacchierare, sì ballare, sì stuzzicare, sì divertirti, insomma. E questo è un po' quello che posso anticipare. Per il resto dovete venire. Per il resto ci vediamo tutte e tutti al binario 69. Angelo, io ti ringrazio. Grazie a voi, grazie mille a voi e buona giornata a tutti.